Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Eccoci qua, buona domenica. Adesso devo dire tranquilla perché il Salone del Libro di Torino è aperto da pochissimo, quindi le persone sono all'ingresso e mano a mano poi si avvicineranno sicuramente agli stand e quindi comincerete a sentire un po' di rumore. Quindi adesso prendiamoci questo inizio tranquillo per darvi la buona giornata, sicuramente la buona domenica, per iniziare questa puntata con degli ospiti tutto rigorosamente dal vivo, nel senso che siamo in diretta come molte delle trasmissioni di Radio 24 in diretta dal Salone del Libro di Torino. Noi abbiamo una sorta di palco con tanto di sedie per chi volesse venire ad ascoltarci e a vedere la voce, come diciamo noi. Il riposo del guerriero oggi sarà una puntata ovviamente che avrà come argomento in un certo senso anche il libro, ma non soltanto. Intanto vi dico il modo per parlare con il riposo del guerriero: gli sms al 349-238-6666 per i vostri messaggi, e poi vi ricordo sempre alle 11.30 anche oggi il gioco, il mistero in 24 minuti, che gli dà l'opportunità di vincere fino a 1000 euro da spendere sul sito libreriarizzoli.it. Per riuscire a portarvi a casa i 1000 euro dovete cercare di risolvere il mistero attraverso gli indizi musicali che mano a mano vi daremo, e insomma il più bravo, se l'indizio ascoltato sarà soltanto uno, si porterà a casa appunto fino a 1000 euro. Potete prenotarvi fin da adesso il numero 800 24 00 24. L'argomento di oggi è la convergenza. Ormai tutto sta dentro tutto, nel senso che nei telefonini possiamo vedere un film, possiamo guardare una televisione, oltre che ovviamente parlare con gli altri, ma forse questa ormai è l'ultima cosa. Il telefonino ormai quasi non si usa più per telefonare, ma si fanno molte molte altre cose. Ci sono i social network per esempio, e attraverso di quelli per esempio ci si può proporre per candidarsi e diventare protagonisti di un film. Vedremo anche questo, quindi il cinema che si integra nel telefonino e magari nella console dei videogiochi. Ormai le televisioni più moderne sono collegate a internet e quindi ci danno la possibilità di vedere qualcos'altro oltre la televisione tout court, e molto altro ancora. I romanzi che diventano videogiochi, diventano storie, diventano film, i film che si trasformano in romanzi e viceversa. Insomma, di tutto questo parliamo oggi nel riposo del guerriero, e per cominciare ho pensato a una canzone che in qualche modo molti anni fa aveva previsto un cambiamento. Erano i Buggles. Kill the Radio Star, semplicemente perché insomma si diceva che la televisione in qualche modo aveva ucciso le star della radio, ma forse non è proprio così, perché ormai tutto si sta appunto integrando. Allora, adesso vi presento gli ospiti, sono tanti quelli di oggi. Innanzitutto Francesco Barbarani, ciao per Fox, perché Fox si occupa di un progetto che adesso appunto andremo a vedere. Poi Stefano Scauri per Warner, grazie e benvenuto. E Alberto Coco per Ubisoft. Grazie, ciao. Ma non avete una voce, vero? Sì. Beh, ecco. Ciao Stefano, eccoci, scusami, non dovevo interrompere. No, io andavo dritto perché voi non interrompevate, quindi. E poi invece Andrea Pucci per Multiplayer. Ciao Andrea. Buongiorno e buona domenica. Tu sei un ospite ritornato, nel senso che l'anno scorso eri già tra i nostri ospiti. A volte ritornano. Ma perché voi vi occupate, insomma, voi siete la convergenza per tanti aspetti. Sì. Io volevo cominciare da te, Francesco, perché c'è il progetto di una TV web, che è Flop TV, e che è nata, come è nata? Beh, ormai Stefano, con un po' d'arroganza, se me lo concedi, non è più un progetto, perché ormai Flop ha più di 2 anni di vita. Vedi come sono vecchio, perché parlo di progetti. No, vabbè, ma figurati, questa cosa l'abbiamo già parlato. Però, no, ormai è un successo incredibile. Noi abbiamo una divisione al nostro interno, a Roma, che sostanzialmente si occupa di broadcast e di televisione. Però 3 anni fa, quando ci siamo accorti che i contenuti cominciavano a uscire dalla televisione e andare sul web, i creativi, perché poi è un progetto creativo, i nostri creativi di Fox Channel, appunto del broadcast, hanno deciso di lanciare questa web TV, una web TV che è nata come esperimento, come test. Abbiamo fatto il nostro sito, appunto Fine Stop, ma come ti dicevo, in 2 anni ha fatto qualcosa come 12 milioni di visualizzazioni dei video, non solo chiaramente sulla URL tra virgolette ufficiali, ma noi chiaramente abbiamo esploso il nostro progetto ai vari social network. Abbiamo un canale su YouTube, su MySpace, su Facebook, quindi è sostanzialmente un laboratorio che però incomincia a darci dei risultati molto soddisfacenti. 50 serie prodotti da noi, Match Capatonda e Le Storie Tese, quindi sono una sorta di comicità parodia presa, messa sul web, con appunto 12 milioni di visualizzazioni in pochi anni, un anno e mezzo, quindi siamo particolarmente soddisfatti. Ti rubo un secondo, sì, per dirti una cosa curiosa: è una delle prime volte che il web va in televisione, perché qualche mese fa è stato preso il meglio di Flop TV e mandato sui canali televisivi. Ecco, io volevo poi capire, tra poco ci sono aggiornamenti sul traffico, tra pochissimo, ma volevo poi chiederti l'età, perché tu hai parlato un esempio di Facebook, hai parlato di social network. Io immagino che molte persone che stanno ascoltando in questo momento ancora fanno fatica a capire che c'è una TV da guardare e in un altro modo, e anche da ascoltare in un altro modo, e quindi cercheremo un po' di capire chi sono gli utenti alla fine, tra poco, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, Riposo del Guerriero, siamo al padiglione 2 in fondo. Voi entrate al padiglione, poi fate il lungo corridoio come se vi trovaste sul red carpet, che in questo caso è green carpet, arrivate fino in fondo e ci trovate. Stiamo parlando di convergenza, ormai tutto il mondo della comunicazione, del media in generale, converge, e io vorrei capire poi alla fine della nostra chiacchierata se magari convergerà verso un unico prodotto. Ne avremo un apparecchio solo che sostituirà tutto, il libro, il televisore, il cinema e quant'altro, non lo so dove andremo a finire. Torniamo invece ai nostri giorni, stavamo parlando di Flop TV con Francesco Barbarani e ti stavo chiedendo l'età media dell'utenza. Ma l'età è chiaramente quella del web, quindi diciamo dai 14 ai 55 più o meno, però fortemente concentrato su target abbastanza giovane. Prima parlavamo appunto di Elio, di Macio, tu sai che Macio, voglio dire, arriva da MyDirecTV, quindi il target è abbastanza giovane ed è un target, concedimi il termine, molto, molto smart, molto attivo, perché noi diciamo una quantità di commenti indescrivibili. Flop TV, non te l'ho detto prima, ma lo sai bene, è giusto ricordarlo per gli ascoltatori, viene, è possibile consultarla anche attraverso mobile, siamo andati sulla Net TV, quindi l'obiettivo è quello di partire da un target. Allora, traducendo semplicemente, ci sono delle applicazioni per i telefonini in questo momento, credo per iPhone, per Windows Phone e per iPad, forse per Android, esatto, tra poco, sì, sì. Per cui dai telefonini è possibile accedere direttamente ai contenuti della TV. Tra l'altro ho guardato proprio questa mattina, con una grande qualità video, anche se avete una connessione non wifi, quindi una connessione normale, diciamo 3G, quella telefonica, per capirci, e la qualità dei video è molto buona, per cui c'è una visione bella anche da quel punto di vista. Magari invece molti pensano che la TV vista in questo modo non sia bella qualitativamente, invece non lo è, ormai oggi si è superato, grazie al cielo, anche questo limite. Io volevo chiedere a Stefano Scauri, ciao, tu rappresenti Warner e quindi una major cinematografica importantissima, siete entrati anche nel mondo dei videogiochi recentemente con grande successo, però vorrei capire per voi la convergenza cosa significa, e web anche per voi che cosa significa. Allora, intanto buongiorno a tutti. Sentiamo. Posso procedere. Vai. Allora, Warner nasce sicuramente come una major cinematografica, perché questa è la nostra nascita, però nel corso degli anni la nostra mission però è divertire le persone, fare entertainment, per cui nel corso degli anni abbiamo modificato anche il modo in cui producevamo e fornivamo i nostri contenuti. Do solo due numeri. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, 2/3 della popolazione americana andava al cinema una volta alla settimana. Oggi siamo al 6%, però la Warner è ancora qua. Da qui la scelta di entrare nel corso degli anni delle serie televisive e da qualche anno anche nel mondo dei videogiochi, perché oggi c'è una generazione che spende molto tempo divertirsi. Ecco, quindi il pubblico si sta spostando dalle sale cinematografiche alla casa o ai device. I device, voglio dire, sono appunto i telefonini, quello che ci portiamo dietro. Diciamo che oggi il pubblico ha una scelta vasta per accedere ai contenuti, e quindi continuerà ad andare al cinema, andare in televisione, andare sul PC e così via. Per noi oggi è difficile raggiungere tutti i nostri pubblici, perché oggi abbiamo generazioni che spendono, i ragazzi che spendono la maggior parte del loro tempo su internet. Ecco che Warner allora offre i film su Facebook e su YouTube. Abbiamo una generazione di persone che sta ancora davanti alla televisione e chi va ancora al cinema. Oggi la difficoltà o l'opportunità nostra è raggiungere tutti questi differenti segmenti di pubblico. Quindi... Ecco, poi ti farò anche una domanda su quello che è il video on demand. Cioè, ormai la cinematografia, i film, quelli che vediamo al cinema, possono essere poi visti tempo dopo, poi magari discuteremo anche di quanto tempo dopo. In questo momento c'è una bella diatriba internazionale. E dicevo, si possono vedere direttamente dalla televisione senza dover andare a noleggiare il DVD o il Blu-ray. Ecco, adesso c'è anche il Blu-ray, però tanti non ci sono ancora arrivati, e quindi si vede direttamente il film senza dover uscire di casa, acquistandolo a 3-5 euro, dipende dai costi, e quindi anche questo è un nuovo modo di usufruire della televisione e di vedere il cinema in TV senza uscire di casa. Quindi non so, quella potrebbe essere un'altra problematica, ma ne discuteremo dopo. Volevo passare un attimo ad Andrea Pucci invece per Multiplayer. Ciao Andrea, benvenuto, perché voi vi occupate invece di carta stampata. Quindi come la carta stampata si sta integrando in tutto quello, il discorso che abbiamo fatto adesso, ovvero il cinema sul web, la televisione che diventa internet ma è anche telefonino. C'è anche la carta stampata per tutto, in tutto questo o no? In effetti mi suona buffo sentire che Multiplayer.it si occupa di carta stampata. È un ossimoro. Cioè, qui i vostri volumi anche. Noi abbiamo fatto un doppio salto carpiato perché nasciamo sul web e, al contrario di molte case editrici tradizionali di carta che negli ultimi anni hanno cercato di trovare uno sfogo online, anche un'identità, un modo di presentarsi con successo, noi abbiamo fatto un carpiato indietro e siamo passati dal web alla carta anche, ma direi, e abbiamo cominciato a presentare questi romanzi tratti da videogiochi. Ecco, quindi cioè, l'idea è quella di prendere dei videogiochi di grande successo, sì. C'è qui Ubisoft, per cui insomma voi siete un po' rappresentate un po' questo, il grande successo di Assassin's Creed, di cui avevamo già parlato, lo dimostra, e avete trasformato la storia di alcuni videogiochi in libri. E anche viceversa, perché abbiamo pubblicato dei romanzi che sono diventati videogiochi. 2033, Metro 2033 è un esempio. Lì proprio è una convergenza assoluta, perché è un libro nato online, pubblicato gratuitamente in rete, poi è diventato cartaceo e poi è diventato videogioco e forse diventerà film. Ecco allora, proprio... non so, per esempio, i romanzi che prendono spunto da delle storie nate per i videogiochi. Adesso voglio ricordare agli ascoltatori che ormai i videogiochi sono scritti anche da autori importanti, autori cinematografici, per cui cominciano ad avere dei plot, per usare un termine specifico, delle trame, per essere più precisi per gli ascoltatori, delle trame complesse, interessanti, intriganti. Chi è che li legge? Li vengono letti dai giocatori o anche dai non giocatori? Dai lettori, per esempio? Guarda, ti farei un esempio. Sicuramente in prima battuta lo zoccolo duro di lettori è il fan del videogioco che compra il romanzo del suo gioco preferito. Però c'è un'interessante tendenza negli Stati Uniti, perché questo filone del romanzo tratto dal videogioco è diventato una gallina dalle uova d'oro, sia per il reparto marketing, perché comunque estende la visibilità del prodotto anche in ambienti che non sono esattamente quelli del videogioco. Ecco, perché poi tutto diventa business alla fine, diciamo la verità, dobbiamo tradurre tutto in questo, no? Perché per forza, insomma. E a loro volta le grandi case editrici hanno cominciato ad assoldare i grandi autori. Adesso mi viene in mente uno degli ultimi romanzi che abbiamo pubblicato, che è Halo Cryptum, sì, che è scritto da Greg Beer, che magari una parte del pubblico conosce, ma chi è appassionato di fantascienza lo sa, ha vinto diversi premi internazionali, tra cui il premio Hugo e Nebula, che sono i due maggiori riconoscimenti per scrittori di fantascienza. Quindi c'è un investimento anche nella qualità, non solo della copertina. Ecco, quindi mentre una volta il videogioco era visto come qualcosa che servisse a intrattenersi e per qualcuno anche a perdere tempo, oggi invece diventa un modo per acculturarsi, per raccontare raccontare una storia, per seguire le vicende, per appassionarsi, molto distante forse da quello che era il videogioco anni fa. Resta anche una parte allo scacciapensieri degli anni 80, c'è anche quello, voglio dire, però ecco una così, una parentesi, è interessante. Noi abbiamo alle nostre spalle lo stand di Nintendo, dove c'è Wii e Nintendo 3DS, quindi è curioso come il videogioco sia entrato in un salone internazionale del libro proprio come videogioco to cure, perché non c'è come la console Wii o Nintendo 3DS per parlare di videogiochi nel senso proprio un pochino più classico, se vogliamo. E quindi è interessante come ci sia questa integrazione. Videogiochi Ubisoft, ecco, allora, voi forse avete un po' aperto la strada, no? Al videogioco che racconta una storia. Come sta andando? Ha 2 anni forse ormai da Assassin's Creed 2? A 3 dal 2007, figurati. La prima, per me il tempo non passa. Il primo episodio. Ah no, io parlavo del 2 per la verità, che è quello che un po' ha mosso le acque. Noi abbiamo, cioè ci piace dire che abbiamo aperto un po' la strada con Assassin's Creed sulla via della convergenza, ecco, la convergenza non vista da un punto di vista tecnologico, ma da un punto di vista editoriale. Poi non è importante, la tecnologia fornisce le macchine per una fruizione diversa, ma al centro della convergenza c'è una storia. E così ci piace pensare noi di Ubisoft, e ci piace raccontarla in modo diverso a seconda del media, no? Per cui abbiamo fatto precedere il Assassin's Creed 2 da un cortometraggio realizzato con la collaborazione di una società che abbiamo acquistato. Certo, vi siete comprati Technology. Anche gli studi per poter fare chiaramente, cinema. Sì, la convergenza richiede investimenti. Molti. No? Richiede investimenti, richiede l'acquisizione di know-how, di expertise. Senti, produrre un gioco di questo livello, sì, come Assassin's Creed, lo dico per gli ascoltatori e per le persone che saluto, che sono presenti qui al salone, produrre un videogioco così, dove ci sono elementi ovviamente ricostruiti al computer, però in realtà alle spalle ci sono veri attori che recitano delle parti e che poi vengono tradotte a livello informatico. Ci sono delle scenografie che vengono costruite dal computer o dalla console che sia, però alle spalle c'è molto altro, c'è l'umana fisicità. Quanto costa in indicativamente? Ma una domanda imbarazzante, comunque. Ma per far capire se sì, costa come un film o meno di un film o di più. Possono arrivare a 30, 50, ci sono state quest'anno produzioni da 50 milioni di euro. Ecco, comunque in linea di principio vanno dai 10 ai 50 milioni, ecco, quindi di euro. Comunque questo, l'investimento è molto alto. È un investimento molto importante, infatti è necessario un mercato planetario per ammortizzare investimenti, costi produttivi. Però di questo quando genere quando il prodotto è di successo ci si riesce, ovviamente. Il videogioco può rendere molto ricchi e può rendere molto poveri. Certo, beh, come tutte le produzioni in realtà, no? Cioè, buttarsi in una produzione è sempre un salto nel buio, può sì funzionare e quindi è un grande successo. Abbiamo anche dei colossal che sono partiti investendo molto e poi alla fine non hanno reso, forse ne sa qualcosa Scauri, non lo so, è successo anche a voi? È così, per fortuna capita avete anche il contrario, che ci sono film di basso costo che hanno degli incassi importantissimi e aiutano a compensare. Voi avete avuto la fortuna di avere un mago nel che è Harry Potter, insomma, che credo che sia proprio un mago nel vero senso della parola. Cosa vi ha regalato Harry Potter? Tantissime soddisfazioni, è stato un decennio sicuramente indimenticabile, perché siamo partiti col primo Harry Potter al cinema nel 2001 e adesso termineremo, la saga terminerà a novembre con la seconda parte del settimo libro. È la franchise che ha prodotto più incassi nella storia del cinema, anche in termini di libri è uno sicuramente dei libri più venduti al mondo. Sono fenomeni straordinari, è incredibile poi la tenuta nel corso degli anni, perché in tanti oramai molto spesso i film di successo girano dei sequel, perché si pensa che facendo un sequel di un film di successo i rischi siano più bassi, però non è sempre così. Qua siamo arrivati a 8 e il successo è ancora alto. Con i libri e con i videogiochi, poi, perché poi in questo senso c'è molta certo convergenza. E poi sono stati fatti i videogiochi, esistono i DVD, Blu-ray, insomma. È stata veramente una gallina dalle uova d'oro. Vi chiedo dove andremo a finire tra pochissimo. Il riposo del guerriero. Ho visto un aspirapolvere passare, spero che non lo accendano qua sotto, perché adesso il rumore comincerà a esserci. Siamo in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, Il Riposo del Guerriero su Radio 24. Oggi parliamo di convergenza. Ormai tutto può essere visto e letto in qualunque modo, nel senso si possono vedere film sul telefonino, attraverso internet, si può videogiocare e poi avere l'integrazione con un libro e quant'altro. Non mi vengono in mente altre possibilità, credo che dovrei mettermi a contare, proprio a usare una formula matematica per capire quante sono le possibilità che la tecnologia poi ci offre, perché partiamo da lì. Io tornerei da Francesco per capire Flop TV. Allora, abbiamo detto il pubblico è quel tipo di pubblico, secondo te è un pubblico che videogioca anche? Sì, sicuramente, noi ce ne rendiamo conto dal tipo di commenti che abbiamo, ma anche per affinità di target, quindi anagrafico e tipologia anche dei personaggi che inseriamo. Ecco, culturalmente, scusami, a che preparazione c'è da parte di questo pubblico? Cioè, è un pubblico preparato, colto, che legge i quotidiani, per esempio, secondo il vostro sentimento, perché forse non avrete dei dati precisi. Ma secondo il mio sentimento sì, perché devo dire che è un pubblico molto attento, e noi ci accorgiamo dal tipo di consultazione dei vari contenuti che inseriamo, quindi riusciamo ad avere una sorta, passiamo in termini, di mappa, no? In senso chiaramente positivo del termine, quindi riusciamo a capire qual è un po' il nostro utente tipo, anche però se ti devo dire che l'utente che magari va su Facebook è diverso da quello di YouTube o quello che arriva direttamente sul sito, però di fatto abbiamo un'idea abbastanza chiara e sicuramente l'aspetto culturale e preparazione c'è ed è importante. Perché appunto mi domandavo anche questo, no? Se un po' si sta abbassando la soglia dell'informazione o se invece in qualche modo questa convergenza la sta alzando. Vorrei sapere l'opinione di tutti. Scauri? No, andavo in ordine. Ah. Ecco, se no ti vedevo assorto, stavi pensando alla risposta. Se vuoi ti salto e dopo ti richiedo. No, sicuramente andiamo in questa direzione, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Scusami, perché mi stanno facendo dei gesti e non riesco a capire. Allora, perdonami. Alberto. Sì, è difficile dare una risposta, no? A questa domanda. Diciamo che dal 1997 che incontro videogiocatori, da quando sono entrato in questa industria, e ho sempre, oltre alle ricerche che insomma abbiamo a disposizione, però ho sempre percepito che il videogiocatore è una persona, quello vero in modo particolare, quello che il fan, è una persona molto informata, molto stimolata, che consuma molto media. Di qualsiasi genere, non so se legge il quotidiano, se ascolta ogni giorno Radio 24, però no, vabbè, di Radio 24 è con l'informazione, no però sì. Capisco, no, è una battuta ma che ha un senso, cioè l'informazione, una radio in questo caso che informa, ecco, quindi il radiogiornale per intenderci. Certo, però sicuramente fruisce molto media. Per te? Io sentivo il collega di Flop TV e devo dire molto fortunato, perché noi su multiplayer.it, sul sito, abbiamo una community di circa 500.000 persone registrate e purtroppo nel corso degli ultimi, noi siamo online dal 99, negli ultimi 12 anni si vede l'evoluzione delle persone, cioè il videogiocatore, come se parliamo di videogiocatori, sì, come un corpo d'elite, quindi una fascia di pubblico estremamente ristretta, selezionata, illuminata, vogliamo dire così, quindi il classico pioniere che si intrattiene con un elemento innovativo, con le ultime, diciamo, con gli ultimi arrivi che sono quelli di massa, che denotano che non hanno lo stesso tipo, diciamo così, di preparazione, diciamo, questo vuoi diciamo dire. Così, ecco. lo si vede non dalle mi piace che tu sia un po' controcorrente, perché io ho un po' più la tua opinione, così la sensazione non posso, come si dice, sputare nel piatto no formaggio. No ma non è per questo, è per cercare noi forse, no, di cambiare un po' le cose. Diciamo che la reazione agli argomenti proposti, alle discussioni proposte, non è sempre come vorremmo. Purtroppo prevale un senso di superficialità, almeno per quello che è la nostra esperienza, che non dipende non solo dall'età anagrafica ma anche da qualcos'altro. Ecco, allora tra gli ospiti c'è anche Fabrizio Canciani, che saluto. Ciao Fabrizio. Ciao. C'è una cosa curiosa, vabbè, se voi foste qui vedreste. Comunque, se noi abbiamo un pubblico con delle sedie, poi abbiamo gli ospiti che sono seduti dietro una scrivania su un palco. Fabrizio invece è come se fosse tra il pubblico, perché così, è comodo, più comodo. No, esatto, più comodo. Fabrizio Canciani fa molte cose, tra le quali scrive anche ed è un comico, canta, suona, ha scritto un libro proprio da pochissimo pubblicato, che sono I gialli in un minuto. E io volevo chiederti, prima di entrare invece nel vivo di quello, poi ne parleremo più tardi, però tu da comico, che quindi si occupa di far ridere le persone da un palco verso un pubblico, come vedi la cultura e l'informazione, se arriva, se si sta abbassando appunto la... no, ti vedo con quella faccia, no, perché, quella vabbè, soglia lì di cui stiamo parlando adesso, perché forse poi noi dovremmo fare qualcosa, no, per invertire la tendenza. Per quanto riguarda la comicità, noi partiamo dagli anni in cui il cinema, Max Sennett negli anni 20 diceva che nel cinema era già stato fatto tutto a livello di comicità. Siamo nel 2011-12, sì. Quindi dovremmo avere già esaurito da un pezzo. In realtà invece il nuovo media, che poi è la televisione, che è entrato in maniera prepotente negli ultimi 10 anni per quanto riguarda la comicità, secondo me crea proprio un gusto, cioè cambia il gusto del pubblico. Ecco, anche quindi, i tuoi gialli infatti si sono ridotti a un minuto, anzi, no, anche a meno. A meno di un minuto, già, esatto. Un minuto, ma non è un problema televisivo, il mio è un altro riferimento, che Max Aub, che ha scritto Delitti esemplari in 2 righe, e ha dovuto ripercorrere le sue tracce cercando una comicità che non è televisiva ma è più letteraria, se vogliamo. Infatti molti di questi gialli sarebbero più da leggere che da recitare, perché hanno poi come dire, un timbro diverso. Ecco, per capire un certo tipo di comicità, per esempio, ci vuole anche un certo tipo di cultura, se no non è possibile interpretarla. Assolutamente sì. E quindi come sta andando? Com'è ricevuta? Cioè è capita? Oppure mancano, ormai stanno cominciando a mancare le basi? Sono cattivo, ma mi accorgo. È una lotta impari, ovviamente. Cioè, ovviamente usando altri media, io uso ancora, per dire, il libro, il cartaceo, per arrivare a queste cose. Però già la radio è un mezzo che, per quanto riguarda per esempio queste pillole, questi gialli, può aiutare moltissimo per alcuni di questi. È chiaro che la televisione la fa da padrone, però la televisione a questo punto ha creato una sorta di genere posticcio di comicità, quindi bisogna cercare di coltivare tutto il mondo circostante, che è ancora molto ampio. Ecco, forse ce la facciamo con la convergenza. Allora, vediamo il rapporto con la televisione. Per te forse è più facile, Francesco, perché voi fate la televisione, diciamo così, classica, poi siete passati anche al web con quello che era 2 anni fa un esperimento e che oggi invece abbiamo detto è qualcosa di molto più concreto. Quanto però la televisione sta influenzando tutti i media? Allora, per come la vedo io, Stefano, è un po' presto fare questo tipo di discorso, però secondo me non esistono più i medium, no? Nel senso, i media. Esiste un unico media orizzontale, che io così potremmo definire una sorta di metamedia, prendendo un termine dal greco, il cui driver sono i contenuti, no? Che poi tu li possa vedere sullo smartphone, sul tuo tablet, sul tuo PC o davanti alla televisione la sera. Non è importante. Il contenuto ormai è quello che lega tutti, che sia un contenuto preso da un videogioco, da Harry Potter o da qualsiasi altro tipo di fonte, passami il termine. Ormai si parla di media meshing, no? Nel senso, sempre di più, quando... Questi sono dei dati che ci arrivano dagli Stati Uniti, ma soprattutto anche dall'Europa. Anche dal termine meshing arriva dall'inglese, anche quello. Italiano proprio, ciao. Sempre di più, io non entro nella tua provocazione sull'italiano, perché inevitabilmente devi diventare sterofilo facendo questo lavoro. Lo so bene. No, però una cosa che sta crescendo tantissimo negli Stati Uniti, ma io lo vedo personalmente anche con me stesso, è il media meshing la sera, nel senso, guardiamo la televisione, magari abbiamo l'iPad, abbiamo lo smartphone, facciamo dell'altro, no? È un po' come succedeva, permettimi un po' di romanticismo, 50 anni fa, quando uno arrivava a casa, accendeva la radio, contemporaneamente leggeva il giornale. Sono cambiati gli scenari, sono passati 50, 60, 70 anni, però il tipo di fruizione del metamedia, permettimelo anche in questo caso, è sempre abbastanza vicino, no, a quello che succedeva 50 anni fa. Si parla di social vision, quindi tutti in rete a commentare la notte degli Oscar perché Jude Law ha un vestito bello piuttosto che quindi brutto. Quella sarà un po' la direzione, secondo te? Io penso di sì. Io quindi penso di l'utente sì. commenterà in continuazione tutto quello che vedrà. Una Stefano. Televisione sempre più attiva, sì. scusami Stefano. No, figurati. Sono perfettamente d'accordo. La televisione nel futuro sarà sempre più importante come apparecchio, verrà utilizzata in maniera differente. Io ho due figli adolescenti che ascoltano la televisione perché si siedono davanti alla televisione, ma sono su Facebook come se fosse una radio. Però sono ecco, su Facebook. Potresti anche dire di ascoltare la radio invece, no? Cioè al posto di ascoltare la televisione. Televisione. Ascoltano la televisione. E poi, secondo me, quello che cambierà tantissimo nei prossimi mesi e anni sono le smart TV, la possibilità di avere un'interattività, quindi la televisione da strumento puramente passivo, dove un contenuto entrava e usciva e tu non potevi che fare... Già ci sono. Ci sono. È che alcune persone, sono anche qua presenti, hanno delle smart TV, come dite voi, ma non hanno ancora capito che possono collegarle a internet e quindi avere una fruizione completamente diversa. Ecco. E lì arrivavo sui Blu-ray, che hanno contenuti attivi, e che ti rifaccio la domanda che ti feci tempo fa, te la rifaccio anche oggi: quanti usano questi contenuti attivi sinceramente? Oggi pochissime, ancora poche persone, perché c'è la necessità di insegnare alle persone a connettere o il lettore Blu-ray o la televisione alla rete, perché non è facile. Oggi noi si stima che ci siano già quasi 700-800 mila televisioni connesse nelle famiglie italiane. Dovrebbero arrivare a oltre 2 milioni alla fine dell'anno, perché oramai la maggior parte delle televisioni nuove sono smart TV, però adesso il problema è farle collegare a internet. E quando la gente imparerà a collegarle a internet, credo che ne vedremo delle belle. Allora speriamo, arriveremo a quello, perché la convergenza è questa. Alberto Cocco tra poco e Andrea tra poco faccio la stessa domanda. Adesso gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Grazie anche agli ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666 e quelli che su Facebook, perché anche la radio deve essere convergente, ovviamente si usa tutto, e per chi che sta commentando ovviamente quello che stiamo raccontando, e anche gli sms di chi scrive ero lì qualche giorno fa e vedervi è un'altra cosa. Però secondo me la radio ha sempre il fascino anche di non essere vista. Io sono un po' di quella scuola lì, nel senso che avendo fatto anche molta televisione, per me sono due media proprio di diversi dal punto di vista del cuore, no? La TV si vede, la radio si ascolta, ed è bello anche immaginarsi, come quando si legge un libro, uno si immagina i protagonisti, si immagina quello che legge, insomma. Quindi non so, quel fascino a me piacerebbe potesse rimanere in qualche modo, la convergenza in forse invece lo toglie, e vabbè, è un'altra discussione, questa se vogliamo è un pochino più di cuore. Stiamo invece raccontando attraverso la voce dei nostri ospiti la televisione, quanto sta influenzando e quanto ha influenzato questa convergenza dei media. Alberto Cocco, Ubisoft. Beh, la televisione è decisamente importante, ha una sua centralità e continuerà ad avere una sua centralità. Forse sarà l'elettrodomestico sul quale saranno sintetizzati una serie di media, questo è facile anche da pensare, insomma, sarebbe decisamente poco rivoluzionario. Insomma. Io devo dire, per esempio, nel mio caso, vabbè, io sono un tecnologico, mi piace ovviamente tutto questo, e la mia televisione, attraverso la mia televisione io guardo YouTube, è molto più comodo perché lo puoi condividere video con gli amici perché è più grande, ovviamente, e uso Skype, per cui telefono, stando seduto direttamente, c'è la webcam proprio attaccata alla televisione, quindi sto seduto sul divano e chiacchiero con gli amici telefonando, quindi in effetti io la uso anche come dicevi tu. E dicevo anche come magari ha fatto cambiare i contenuti, ecco, la televisione, in questo senso, quindi forse sta facendo cambiare anche gli altri media. Sicuramente ha ancora detta legge, insomma, la televisione insegna, eccetera. Però, diciamo, come sempre, risposte innovative, nel senso della convergenza, vengono sempre date dalla periferia, no? Ecco, il videogioco potrebbe essere definita la nuova periferia dell'entertainment, dell'informazione, del mondo del media, no? E infatti a me piace dire che alla fine televisione, computer, telefonino, insomma, sono degli elettrodomestici, sono degli strumenti attraverso il quale il consumatore fruisce, e la convergenza è vista dal punto di vista del consumatore, vista dal punto di vista nostro, come stiamo cercando di interpretarla, significa proprio fruire una storia attraverso diversi media. È un po' l'esperimento che abbiamo cercato di realizzare con Assassin's Creed Lineage, il nostro cortometraggio, uscito poco prima del nostro videogioco nel 2009 di Assassin's Creed 2, che racconta che è il prologo, in sostanza. Sì, quello che è accaduto prima, le gesta, quello che è accaduto prima, quando poi è che dà una ragione al videogiocatore. Un vero e proprio filmato, ecco, era esatto. Proprio un film, si poteva dire attraverso YouTube, poi sono stati fatti anche dei DVD. Secondo te questo ha portato dei nuovi giocatori? Il fatto di vedere un film è trasformato poi in un videogioco, e ha portato nuovi videogiocatori o no? Il film è stato visto più che altro da chi avrebbe comunque già giocato al gioco. Beh, ha fatto notizia, e ci sono tante persone interessate alla grafica, no? Sì, oggi certo. Come oggi è uno degli aspetti molto importanti che interessa molto i giovani, i ragazzi. Lì e c'era non una soltanto, bellissima integrazione giovani, fra i personaggi in carne e ossa, esatto. E invece la ricostruzione completamente virtuale dei fondali, in poche parole. Era della scenografia. Non una interpretazione originale, perché ce ne sono state prima, no? Appunto di una interpretazione originale di questa nuova tecnologia che consente di sovrapporre gli attori veri a dei setting estratti in questo caso dal videogioco, che questa è un po' l'innovazione, no? Che ha caratterizzato, no? Col browser, col motore, con l'engine del videogioco sono stati presi degli scenari sui quali poi sono stati montati gli attori. Gli ascoltatori ogni tanto so che sentono dei termini a volte secondo me in cui si potrebbero perdere, no. Adesso però capisco che in effetti poi lavorandoci tutti i giorni i termini sono quelli. Andrea, come la televisione ha influenzato invece lo scritto? Per esempio voi siete usciti con un fumetto proprio recentemente, eccolo qua, Level Up si intitola. Sì, questo è a proposito di termini difficili, sì. Graphic novel. Una graphic novel, cioè un racconto una storia illustrato. Sì, è così bello, il racconto illustrato. Da noi c'era la domenica illustrata, voi non ve la ricordate neanche io, però non sono così vecchio, però esisteva. Allora, senti, io volevo fare un inciso perché ascoltavo loro e la domanda come la televisione ha influenzato. Sì. Io direi come la televisione è stata influenzata. E poi una. Non ci credo tanto, però proviamoci. Si è visto da come hanno pescato a piene mani sul web per fare addirittura alcune trasmissioni che sono improntate su quelli che sono i contenuti web, sì. Degli utenti, ce lo testimoniava anche lui prima con i contenuti presi da flop e mandati in televisione. Però aggiungerei anche un'altra cosa: se per televisione intendiamo la cornice, cioè il monitor, no, io intendevo il servizio del contenuto, ovviamente in questo caso quello, intendevo il contenuto per quanto mi riguarda sarà destinato completamente a cambiare, completamente sarà travolto da un calo drammatico d'attenzione delle persone che non sono più interessate al messaggio passivo, a prendere senza poter replicare, senza poter ribattere, e in questo senza andare. Quindi i nativi digitali ormai avranno l'abitudine di guardare una cosa, commentare, fare, essere protagonisti sempre e comunque. I nativi digitali sono andati in un'altra direzione completamente, e la televisione secondo me è alla disperata ricerca di innovazioni sia di tipo contenutistico sia di tipo tecnologico per non essere spazzata via da internet e i suoi derivati, per derivati intendo anche i device e tutto e l'approccio stesso alla fruizione dei contenuti, quindi quello che è la touch generation, quindi la mancanza completa di strumenti di interazione ma usi le mani, cioè io direi che in questo momento è la televisione che è influenzata, non riesce più a influenzare, tranne che ovviamente in questo, lo dico a Alberto, è il marketing che continua ovviamente a attribuire alla televisione una grande importanza nella comunicazione, perché c'è una sopravvivenza indotta. cioè, si lascia che la tensione sopravviva. Adesso io avrò la domanda chiave, cioè dove andremo a finire poi, no? Perché sono qua a disco. Poi voi siete un po' i protagonisti di questo cambiamento in un modo o nell'altro, lo siete davvero, e lo dico anche per gli ascoltatori, perché rappresentate realtà molto importanti, anche internazionali, e non nel caso di multiplayer purtroppo, no, voi siete anche un po' internazionali, perché in fondo voi traducete anche tante cose dall'inglese all'italiano. Assolutamente, abbiamo fatto anche un'esperienza al contrario, abbiamo pubblicato dei prodotti in spagnolo in Spagna, quindi c'è un timidissimo nostro tentativo di affacciarci oltre confini nazionali. No, lo dico anche perché, e non per vantarmi, l'Italia è l'unica nazione europea che ha un'offerta così ampia, variegata e profonda di prodotti derivati dai videogiochi in termini cartacei, cioè romanzi e guide strategiche. Non c'è nessun altro paese europeo? Malgrado noi si sia, noi la Francia forse, ma noi sicuramente si sia, come italiani, quelli che utilizzano Facebook nel peggiore dei modi, e lasciamo perdere Twitter, non sappiamo neanche che cosa sia assolutamente, però invece il mondo va un po' diversamente, vedremo anche questo. Io poi avrò un po' la domanda chiave per tutti, la domanda chiave è dove andremo a finire, e se andremo a finire da qualche parte, forse non si può prevedere, o forse sì, perché ci sono anche già delle strategie, e quindi preparatevi, dopo il GR ne discuteremo, e quindi poi un po' gli artefici di questo cambiamento, nel bene e nel male, potreste essere anche voi, per cui vediamo se andremo a finire nel bene o nel male, poi bisogna vedere, chiaramente è una provocazione ovviamente. Quindi come tutto convergerà, come ogni cosa diventerà una soltanto, e se è una, quale sarà? Nel riposo del guerriero, dopo il GR in diretta dal Salone del Libro di Torino. Il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero in diretta dal Salone del Libro di Torino. Siamo veramente in diretta, nel senso proprio fisicamente, e lo siamo sempre, ma siamo fisicamente qua presenti con tanto di pubblico che ringrazio per essere qua seduto davanti a noi e con i nostri ospiti. Allora, per ricitarli, adesso li nominerò nuovamente perché a loro ho la domanda finale, ovvero dove andremo a finire. Oggi parliamo di cultura convergente, quindi come... cosa vedremo, che cosa avremo? Francesco Barbarani, per Fox, dove andremo a finire? Ma guarda Stefano, io dove andremo a iniziare, mi verrebbe da dire, con un po' di ottimismo, dai, sì, cominciamo ad essere un po' ottimisti, non piangerci più addosso. Io sto leggendo un libro, visto che siamo al Salone del Libro, di Don Tapscott, che si chiama Next Generation, questo è un professore canadese, un genio, e sto scoprendo delle cose sulle Next Generation. Prima, durante il break, facevamo due chiacchiere, io ho una figlia di 2 anni e mezzo, per esempio, lei non guarda la televisione, ne guarda pochissimo, ma è rapita dall'iPad o dallo smartphone. Ah, scusa, dopo solo un secondo. Per salutare alcuni ascoltatori che gli hanno posto di convergenza, vi stiamo ascoltando dal telefonino, ecco, e quindi è interessante. Quindi mia figlia la televisione, io cerco di forza farle leggere leggere, quantomeno guardare le immagini, ci sto provando, però questa usa l'iPad quasi meglio di me, e quindi questa è una cosa che mi incuriosisce. Il libro di Next Generation ti dà l'idea un po' delle cose, però anche prima ne parlavamo appunto durante l'intervallo, tu non a caso, scusami, faccio un passo indietro, hai iniziato con Video Kill the Radio Star, le Radio Star non sono morte, sono cambiate. Adesso Lady Gaga probabilmente non vende più 10 milioni di dischi, ma ha 10 milioni di amici su Facebook o su MySpace, perché non dimentichiamoci anche MySpace, che oltretutto è una creaturina, certo, nostra, se posso dedicargli 30 assolutamente secondi. È stata la piattaforma di lancio per tantissimi musicisti, quindi, in tutto il mondo. Non dimentichiamoci, ne parlavamo prima, che uno strumento come l'iPad, che nell'ultimo quarter ha venduto 4 milioni e mezzo di pezzi, 15 mesi fa non esisteva. Quindi io ho quasi paura a dirti dove andremo. Io ritorno sul discorso che facevamo prima. Secondo me contenuti e tecnologie sempre più vicine si accorceranno le distanze. Tu potrai vederti un film dalla metropolitana con il tuo smartphone, lo potrai commentare, e poi si apre il tuo contesto anche ai messaggi pubblicitari, perché in questo poi i clienti, gli inserzionisti dovranno incominciare a capire. Voglio dire, un paradosso, e con questo chiudo, lascio la parola ai miei amici, degli eccessi, no? Si passa più tempo sui media, ma c'è la frammentazione delle audience, quindi meno tempo sui singoli media. Quindi questa è un'altra cosa che le aziende poi dovranno studiare per andare a prendere i propri consumatori e potenziali clienti. Quindi io penso che tecnologie però tecnologia, adesso non so dirti se arriverà un iPad 5, che non lo può sapere nessuno, però io penso che i contenuti saranno ancora il punto di contatto e accorceranno le distanze, a fronte di nuove tecnologie che sicuramente arriveranno. Scusa, salto Andrea Pucci, multiplayer.it, per chiederti se avremo ancora i lettori della carta stampata. È una bellissima domanda. L'ha fatta apposta, se no. C'è questo tentativo di lanciare il lettore di ebook. Sì. In Italia sta funzionando un pochino a rilento. Sono i diritti, il problema sono i diritti. Una questione finché di... i contenuti sono esatto. bloccati, non andremo da nessuna parte. Fino a che prossima, i contenuti prossima argomentazione. Okay. Fino a che i contenuti costeranno come il prodotto esatto, cartaceo da cui derivano. Meno, diciamo, negli Stati Uniti sta andando meglio, ma ancora parliamo di pochissimi punti percentuali. Certo. La destinazione è quella. Infatti io, per rispondere alla tua domanda, io mi ero posto due punti, perché sì. poi dove andremo a finire su tutto il resto della vita tecnologica è veramente una risposta difficile da dare. Videogiochi e romanzi. Cioè, romanzi sicuramente nel corso dei prossimi 5 anni ci sarà un cambiamento nella fruizione, sempre in pochi punti percentuali per volta. Il romanzo cartaceo ha una sua vita, una sua dignità, intendo dire il prodotto di carta, a prescindere sia un romanzo o meno, nessuno gli toglierà vita, come è successo in altri ambiti in cui la digitalizzazione ha spazzato via un settore, come è successo per esempio anche nel mondo della musica, sì. in cui il CD, insomma, il certo. supporto fisico è stato spazzato via nell'arco di meno di un decennio. Invece per quanto riguarda i videogiochi ci sono alcuni dibattiti in corso, perché c'è questa lotta del low cost verso lo standard cost, cioè del prodotto a basso costo touch, perché ormai l'App Store di Apple è diventato... Cioè il prodotto a basso costo, per il videogioco che tu giochi sul telefonino, che costa 1,99€, 4,99€, insomma certo molto diverso momento, dai 59,99€ di videogiochi momento, per console. Insomma. In questo momento c'è una lotta incredibile. Beh, anche tra, c'è molta differenza tra di iPad, iPhone e le console portatili. Sì, per ora la sì. lotta è su un segmento. Ed è una lotta impari, perché esattamente come la figlia del collega, anche sì. la mia figlia, anzi anche il bambino che ha 3 anni e la bambina ne ha 6, giocano sempre spesso su iPad e su iPhone del padre. Non hanno ancora il loro, certo. è solo questione di tempo. Arriverà, rosa magari azzurro, sì. perché è così che Se funziona. Posso dire solo Dai, una cosa, sì. io sono convinto che tempo un anno in famiglia, come tutti adesso abbiamo lo smartphone, avremo tutti il nostro tablet. Io su questa cosa certo. posso... Ecco, parliamo di tablet, bravi, in generale, perché adesso va bene tutto, però non esiste una realtà soltanto. No, scusate, perché è anche questo. Alberto Cocco per Ubisoft, il tuo futuro, vostro, sì, ma tuo allora... pensiero. La convergenza è sempre esistita, ecco, cambia forma. Io prima ho parlato della convergenza da un punto di vista del consumatore, dal punto di vista editoriale. Volevo anche parlare da un punto di vista business, perché è qui che mi sembra di vedere qualche novità, diciamo, rispetto al passato. Nel passato ci si limitava alla cessione della licenza, oggi come oggi invece vedo una certa tendenza da parte degli editori di prodotti cinematografici, esatto, posso cedere le licenze, ormai esatto, producono loro. Esatto, producono loro, e noi cerchiamo di fare la stessa cosa, cioè di non cedere più la licenza, ma di costruire una storia. Chiaramente non si una storia cinematografica, ad esempio, chiaramente non è che si diventa produttori di cinema dalla sera alla mattina, no? E quello che si è visto in questi ultimi anni è un processo lento, forse lento anche per la crisi, insomma, che ha sottratto un po' di energie finanziarie a tutti, però un processo lento di acquisizione di tecnologia, di società, di strumenti, di know-how, quindi di persone che collaborano alla realizzazione dei videogiochi, che sviluppano progetti editoriali sempre intorno alla storia come progetti editoriali cinematografici, no? E quindi questo penso che sia un po' il futuro per quanto ecco, riguarda... Quindi anche molte opportunità di lavoro poi che entreranno in gioco, perché cambierà anche il tipo di lavoro. Sì, ovviamente. Molte opportunità di lavoro in questo ambito, perché sono industrie ad alta intensità di certo. lavoro, certo. Insomma, ci lavorano tanti ragazzi molto qualificati, molto specializzati. Grazie. E allora per finire Stefano Scauri per Warner. Eccomi qua. Allora, io credo che noi abbiamo una fortuna, abbiamo i contenuti, per cui dobbiamo essere bravi a fornire i nostri contenuti ai consumatori come le vogliono, dove le vogliono, al prezzo al prezzo che chiedono, giusto. Al prezzo giusto, il certo. Futuro ce lo dirà la tecnologia, come si diceva prima, se questa trasmissione è stata fatta un anno fa, del tablet si poteva parlare come di una cosa che doveva venire. Un anno fa non esisteva il tablet sul mercato italiano, perché il primo tablet è uscito alla fine di maggio in Italia. Sì. Quindi non sappiamo cosa ci sarà l'anno prossimo. E un'altra cosa che vorrei dire è che bisogna parlare anche di convergenza temporale, oltre che di convergenza tecnologica, perché la nuova tecnologia consente in molti casi di accorciare anche le finestre fra i vari sfruttamenti. Ormai è normale negli Stati Uniti vedere le serie televisive sui tablet il giorno dopo al primo passaggio in televisione. Ecco, allora proprio su questo io vi lascio e intanto vi saluto Francesco Barbarani per Fox, Andrea Pucci, Multiplayer.it, Stefano Scauri per Warner, Alberto Cocco per Ubisoft. Grazie davvero di essere venuti. Io chiudo con un giallo in un minuto di Canciani, che tra poco sentiremo, che riguarda in qualche modo forse la pirateria, della quale hai appena così accennato, per non solo quella, perché per combatterla una delle idee è quella di mandare i film al cinema e solo poco dopo la finestra di quanto vorrebbe essere massimo di... Non posso esprimere. No, però ecco, perché sto leggendo anche su Internazionale, allora, l'ho letto proprio l'altro giorno. C'è un test in corso negli Stati Uniti in questo momento, è 60 giorni. 60 giorni. Ma è un test. Questo sta creando molte polemiche, vedremo cosa accadrà. Allora vi leggo e vi lascio con questo piccolo giallo. Amore, ascolta. No, lei che parla, scusatemi, quindi. Amore, ascolta, stanno suonando la nostra canzone, disse lei. Maledetti plagiatori, esclamò lui e si avventò sul pianista per ucciderlo. Grazie a tutti, gli aggiornamenti sul traffico, poi Fabrizio Canciani ed Elisa Ersili a Litrico per parlare di un progetto tutto web, ma non soltanto. Il riposo del guerriero. Eccomi qua in diretta sul libro di Torino, stavo chiacchierando, concedendo gli ospiti. Intanto volevo leggere un messaggio che dice: se ho capito bene, si va verso l'intervento a oltranza di tutti su tutto, invece di studiare le cose basta poter interagire anche se si è analfabeti. Questa è una bella polemica, la faremo in un'altra puntata, perché ho delle idee in questo senso, ma volevo parlare d'altro. Adesso ho due altri ospiti che sono Ersilia Litrico, che saluto, ciao Ersilia. Ecco, no, si puoi parlare, hai un microfono adesso, perché Siri era qui seduta davanti ma non poteva soltanto ascoltare. E Fabrizio Canciani, ciao. Ciao, ci siamo già salutati prima. Esatto, allora io prima di Fabrizio volevo parlare con te, Ersilia, per questo Facciamo Cinema, che è veramente un po' il connubio, è la convergenza nel vero senso della parola. Un'idea nuovissima, originalissima, nata da Patrizia Fersurella e Mario Presta. Questi due autori sono stati geniali perché vogliono far vivere questo mondo di questi internauti, questi ragazzi misteriosi che noi, almeno la mia generazione, li guardo un po' così strani. Qual è la tua generazione? Perché gli ascoltatori da casa non ci vedono. Dinne una, quella che vuoi. La mia generazione sono i professori universitari che ci sono adesso. E non si riescono quasi a capire, perché comunque sono un po' isolati, stanno ore e ore sul computer, chattano con ragazzi mai visti, si scambiano idee, opinioni. E siamo anche tutti un po' preoccupati di questa nuova generazione. Per cui con questo Facciamo Cinema vogliamo far entrare nelle case di tutti questi messaggi, per capire proprio questi ragazzi, un'idea nuova, originale, brillante, dove tutti partecipano, c'è una web TV, e però poi alla fine questo film andrà al cinema. Ecco, allora la cosa curiosa è questa: voi avete fatto i casting attraverso la rete, certo. State cercando la colonna sonora attraverso la rete, cioè state invitando i musicisti a mandare una colonna sonora, certo, per proporsi, e poi quella giudicata migliore dal popolo della rete diventerà la colonna sonora del film. Certo, praticamente questo Facciamo Cinema si divide in tre fasi. La prima, sono stati scelti due presentatori che avranno un ruolo fondamentale, Lara e Danilo, perché ogni giorno andranno nel backstage, andranno a fare interviste, faranno vivere proprio su internet, sul sito, minuto per minuto la produzione del film. E i ragazzi da casa diventano anche loro protagonisti in qualche modo. modo, addirittura con la partecipazione di 10 euro alla fine, quando ci saranno la divisione degli utili, prenderanno anche loro una piccola diventeranno quota, diventeranno come dei soci, esatto, dei soci, del film. Certo, per cui è bello perché tutti si sentono parte viva di questo progetto. E poi la seconda fase sono il casting, che è fatto on the road, per la strada, certo. Tutti i ragazzi verranno scelti così in diverse città italiane e luoghi diversi. E poi la colonna sonora, un'altra novità, anzi i due ragazzi che poi sono stati scelti, Laura e Danilo, come presentatori, hanno vinto un concorso e hanno partecipato e hanno vinto questi 10.000 euro per fare appunto questo, diciamo, uno stage, per cui anche una promozione a livello formativo che servirà anche per il loro futuro, per un futuro di lavoro. Per cui è questa proprio l'idea giovane e fresca di questo film. Sì, la cosa bella è che tutto è stato creato e costruito attraverso la rete, diventerà poi concretamente un film che si vedrà al cinema. Se volete le informazioni, capire di cosa stiamo parlando, c'è un sito ovviamente che è www.facciamocinema.com, che ha già raccolto in pochi mesi più di 3.000 amici. Questi amici appunto fanno già parte viva di questo progetto. E la seconda fase invece è quella della colonna sonora, come dicevi appunto te. La colonna sonora sono stati scelti da una giuria 200 diciamo tra singoli e gruppi, e poi al Teatro Golden di Roma, dove un po' è la, diciamo, il quartier base, generale, sì, di tutto questo progetto. Ci sarà, i ragazzi, gli internauti sceglieranno 50 diciamo di questi che hanno partecipato, gruppi o singoli, e poi la sera della premiazione verranno premiati 10, i primi 3 gli verrà consegnata una targa, il vincitore sarà quello che avrà il compito di fare poi la colonna sonora del film, per cui è proprio divertente tutto. Allora, complimenti, e poi ne parleremo quando uscirà ovviamente il film e lo vedremo poi concretamente nelle sale cinematografiche. Grazie Ersilia. Allora, Fabrizio Canciani, Gialli in un minuto, prima ne abbiamo parlato un po', quest'idea nasce, hai anche spiegato perché, quanto tempo ci hai impiegato a scriverli? Cioè, è un'opera nata nel corso degli anni o ti sei messo lì 6 mesi fa e hai detto la devo scrivere? Beh, un'opera, adesso non esageriamo, cioè, sì, in 6 volumi un sono, libro, no? sono quasi 200 gialli, 200 gialli in 2 righe, raccolti, 3 righe. Vi dico in quante pagine, non sì, so se ci sono, in sì. 150 pagine, sì, perché poco sono meno. Delle illustrazioni molto molto carine, molto storiche, illustrazioni d'epoca molto molto belle. Sì, alcuni diciamo li ho usati negli spettacoli, altri li ho scritti apposta, perché alcuni sono quelli che, come dire, più tra virgolette fruibili, altri invece sono un po' più da leggere, un po' più letterari, quindi un po' ho voluto unire le mie passioni, che sono quelle del giallo. Io scrivo anche libri, tu lo sai, seri. Beh, anche questo è un libro serio, sì, in realtà, sì, però con storie, con noir, certo. con la trama e tutto. E quella della comicità, del, se vogliamo, il cabaret, un certo tipo di cabaret di storia. Vediamo se abbiamo una base, sì. Che è una base thriller, insomma, per mettere un po' di atmosfera, possiamo far partire, sì. E se vuoi leggerci qualcuno di questi gialli. C'è la base? Non c'è. Non c'è. Falla c'è. Tu, fai. No. C'è il sottofondo del no, del libro di prima. Va bene, anche questo, va bene. Notte, solo nella via. Il semaforo lampeggiava, la freccia di un'auto lampeggiava, la scritta hotel lampeggiava, anche l'albero di Natale lampeggiava. Lui vide il cadavere, poi non lo vide, poi vide il cadavere, poi non lo vide, poi vide il cadavere. Sfumo. Certo, beh, ovvio che questo succede. Poi, questo diciamo che il livello di comprensione è... Questo è semplice. Non so, c'è questo qua ancora più semplice. Era una notte buia e tempestosa. Un tempo da cani, vagavo come un cane randagio, solo come un cane, faceva un freddo cane e alla fine fui arrestato dal commissario Rex. Ma porco cane, venuto il porco cane. E non ci voleva assolutamente, sì, qua, se no la chiusa, vai. Poi. Ci sono quelli un po' più difficili, sì. Questo qua è un po' più elaborato, scivolò sul tappetino della doccia. Il bidet non lo sorresse e andò a sbattere contro il coperchio del water, procurandosi un profondo taglio. Un bagno di sangue. E questo è già un pochettino, come dire, più. Però si è capita, ecco. Si è capita, sì. Ce n'è una d'attualità, no? Si parla di, come dire, di sofisticazione di cose. Sì. Ma in alto, non essere ridicolo, la tua pistola è finta, ma ne sei certo? c'è scritto Li Voltella sulla canna. Quindi ovviamente sai, cinese, certo. Ormai la L dappertutto e così via. Allora, insomma, i gialli in un minuto, Fabrizio Canciani, grazie. E hai anche una presentazione di Carlo Lucarelli, giusto? Sì, in un minuto, prefazione in un minuto, sei prestato, Carlo, a questo gioco, chiaramente anche per spostare un po' l'attenzione, non tanto dalla comicità, ma anche io non sul ho giallo, la sua voce, ma... la leggo lo stesso. Sì. Come in ogni buon giallo, anche qui c'è un mistero da risolvere. Mentre leggo i noir di Canciani, così telegrafici, ma anche così ricchi di dettagli, di suggestioni, di idee, mentre leggo queste storie fulminanti, insomma, sorrido con un brivido. Ora brividisco con un sorriso, ecco, anche lui quindi lascia ovviamente il punto di domanda. Fabrizio Canciani, gialli in un minuto, grazie Fabrizio. Ersilia Litrico del progetto Facciamo Cinema, grazie di essere stati con noi. E va avanti, Riposo del Guerriero, sto guardando l'orario perché io so che ho anche altri ospiti al telefono, forse c'è Davide Paolini tra pochissimo, al quale chiedo di avere un po' di pazienza, anche per chi vorrà giocare con il mistero in 24 minuti, per voi fino la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libro Rizzoli.it. Cominceremo un pochino più tardi, vi do il numero però per prenotarvi: 800 24 00 24. Credo che ci sia Fables al telefono. Buongiorno, sì. Ecco, ci sono. Sì, Fabio, sì, molto velocemente. Oggi sai che non si può fare assolutamente campagna elettorale, però voi invece la potete fare, perché a Bologna avete fatto una provocazione, avete costruito, parliamo di guerriglia marketing, gorilla, scusami, che non mi viene la parola, giusto? Che praticamente dalla fine aprile si è candidato a sindaco di Bologna, visto che ecco, oggi e domani si vota anche a Bologna per il nuovo sindaco. Sì. E lui è entrato con uno spot elettorale che parodia un po', se vogliamo, quello del 94, della scesa in campo di Cos'è Berlusconi. Più banane per tutti? Cos'è lo spot più elettorale? Più banane per tutti è lo slogan che segue tutta quanta la campagna elettorale. Sì. A cui ha fatto seguito dallo spot anche un'attività di affissione e di subvertising, vale a dire di parodia anche lì dei messaggi dei manifesti degli altri concorrenti. La notizia è iniziata a girare abbastanza, comunque se ne hanno parlato in molti, perché comunque c'è sicuramente un. Ecco, senti, ma curiosa. Quando questo sindaco gorilla andava in giro con l'automobile per... Con la petta, sì. Ma qualcuno ci ha creduto? Nel senso, cos'è stata la reazione dei bolognesi? Ma guarda, io mi ricordo solamente questa scena meravigliosa, che noi eravamo in piazza 8 agosto e c'erano dei ragazzi dal quarto quinto piano che ci urlavano forza Magilla, vota Magilla. Quindi è comunque un personaggio che è riuscito anche, secondo me, a prendere anche dei voti. Nonostante non lo troveranno sulla scheda, però, quindi sarà difficile. Però potranno scriverlo, magari l'associano a qualunque cosa, va bene. Sì, tanto trasversale. Lo scrivono comunque vota Magilla, esatto. Senza che sia candidato realmente. Ecco, questa operazione di guerriglia marketing che avete fatto vi ha causato qualche problema alla fine legale, diciamo così, oppure no? È andato via tutto liscio? Assolutamente no, è andato tutto quanto liscio, siamo stati comunque sia molto cauti nelle attività che abbiamo messo in scena. E quindi no, fortunatamente non ci ha portato nessun problema a livello legale, ecco. A meno, invece, perché sai, altre volte nel passato è stato un ma po' sì, diverso, sì. Ma di questo sì, magari esatto, ne racconteremo la prossima. Un massimo delle precauzioni, perché a volte certo. Si può anche incombere in problemi di questo tipo. Non è semplice, lo so. Allora, blog Guerriglia, il tuo blog, Fables, grazie, bravi, perché avete fatto una campagna molto divertente. Ne hanno parlato anche tanti giornali, autorevolissimi, fra l'altro, e nazionali. E insomma, per i bolognesi poi sapete di cosa stiamo parlando, perché avrete visto veramente Magilla Gorilla in giro per le vie e le piazze e sui muri. Grazie ancora Fables. Tra pochissimo Davide Paolini invece con il Wine Bar, noi abbiamo le previsioni del tempo adesso e ancora il numero 800 24 0024. Il riposo del guerriero. Diretto dalla Salone Internazionale del Libro di Torino, Riposo del Guerriero, e tra poco giocheremo per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, il numero per prenotarvi 800 24 0024, ma prima c'è il nostro gastronauta. Zanini, produzione Porte Hotel Tagliafuoco. Sogni d'oro, Zanini Porte. Vi presenta il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, abbiamo parlato di convergenza oggi dei media in generale, però c'è convergenza anche nella cucina, nella ristorazione, nel vino. Convergenza in che senso? In cucina, tutto si sta mischiando, ormai vanno di moda i ristoranti fusion, per esempio, dove si mette tutto insieme. Beh, non direi, perché in questo momento mi sembra che proprio la cucina fusion segni un po' il passo. Ecco, vedi, meglio. Si sta un po' superando. Certo che il piatto unico, diciamo oggi, specialmente a mezzogiorno, in giro per l'Italia è imperversa, un po' dappertutto. Cioè non ci sono più le tre portate, le quattro portate o le grandi degustazioni, menù degustazioni, è vero. C'è questo tipo di soluzione di forse di fare sempre più in fretta. Anche sul vino ormai si va sul bicchiere, quindi potrebbe essere una convergenza anche questo, credo. Certo. Però convergenza di stili, questo potrebbe sì. anche essere, perché vediamo che ogni anno emergono dei nuovi stili. Ora, ad esempio, nella cucina, a livello di alta cucina sto parlando, non di cucina di tutti i giorni, sta interessando la cucina del nord, quindi diciamo danese, norvegese, svedese. Quindi è un momento di cambiamento, e probabilmente così, quando poi queste cucine arrivano al top, poi cercano di mescolarsi con le altre sicuramente. Beh, io credo che tu la chiami convergenza, è stata chiamata convergenza, ma io la chiamo una fusione, ma non tanto cucina fusion, una fusione fra vari stili, vari prodotti e vari modi di cucinare. Ma questa è un po' la storia della cucina. Io credo che sia sempre, io direi addirittura che c'è una convergenza continua, perché sempre ci sono delle contaminazioni. Ecco, esatto, quindi è la contaminazione. Sì, convergenza in cucina io la tradurrei in contaminazione, e la contaminazione dura da sempre, dico una battuta banale, ma dura da quando è nato l'uomo, insomma, quindi cioè, la contaminazione è presente ogni giorno. Oggi nel programma abbiamo così raccontato di come ormai tutti i media sono integrati fra di loro, la letteratura è diventata web, il web è diventato cinema, il cinema è andato sul web, la TV si vede dappertutto, eccetera. E tu che opinione hai di tutti quei così cuochi o pseudo cuochi, semplicemente appassionati, che su YouTube quotidianamente raccontano di ricette e di come si preparino determinati piatti, che poi hanno anche grande successo? Peccato che abbiano successo. Lo sapevo, per quello te l'ho chiesto. peccato che abbiano successo. Io preferirei che stessero molto in cucina a preparare i piatti per i loro clienti, invece di essere sempre alla ribalta. Ce ne sono alcuni che sono alla ribalta, che poi quando vai a mangiare scopri che non sotto il vestito niente, ma sotto la padella proprio niente. Non ce ne brucia tutto. Senti, ma non è invece un modo per portare poi le persone a tavola fuori dalla casa? Ma no, non direi, perché innanzitutto le ricette degli chef sono non proponibili a casa per tutta una serie di motivi. Uno, non c'è la tecnologia che di solito hanno nei ristoranti. Due, le loro ricette che danno sono molto approssimative, perché da parte loro c'è una grande esperienza, quindi quando salano buttando un pizzico di sale non ti danno la dimensione, quando dicono mettiamo dell'olio non ti dicono quanto, quindi le precisioni che si ritrova anche sui loro libri, sui libri degli chef. E io non so, c'è gente che li compra, credo come un tempo si compravano sai quando c'erano tutta una serie di biblioteche che erano fatte su misura, appunto con i libri, si prendevano la misura dei libri e esatto. Si mettevano per far vedere. Ecco, io credo che molti a casa tengano queste ricette degli chef tanto per averle, partite. Ecco, se poi certo. Poi il frigorifero cosa c'è dentro? 4 salti in padella. E vabbè, anche quelli sono preparati dagli chef, no? È una battuta ovviamente. Certo. Per cui dici che alla fine che insomma bisognerebbe più saper gustare e andare a cercare il gusto giusto piuttosto che pretendere di farlo e di impararlo per finta attraverso questi mezzi. Siamo nell'era della comunicazione, siamo nell'era appunto di YouTube. Vogliamo essere protagonisti di tutto, quindi anche in cucina vogliamo essere protagonisti, scusami. C'è stata una riabilitazione dello chef, prima il cuoco non era considerato oggi è considerato una star, cioè c'è veramente uno star system di cuochi incredibile. Se tu apri i giornali ogni giorno c'è la foto di qualche chef, di solito sono due o tre che appaiono, ma insomma si vede che i giornali hanno solamente quelle foto, oppure probabilmente i quotidiani non sanno andare oltre, ma oppure c'è un ufficio stampa molto bravo, non lo so, questo è tutto da vedere. Però dico, oggi sono alla ribalta ovunque, tu apri la televisione, apri anche la radio ormai, certo. Nella radio si sentono moltissimo gli chef che raccontano le loro ricette. Peccato che non si senta il profumo, non si vedono mentre tagliano, ma insomma anche questo è un altro punto di vista. Secondo me dare una ricetta alla radio, bah, non lo so, lo trovo abbastanza così, un controsenso, però è possibile anche questo, insomma. Certo, però insomma è molto, cioè tu dici alla fine io non mi fido molto di quello che ormai YouTube propone quotidianamente con quelli che dovrebbero dedicarsi forse ad altro più che alla cucina raccontata almeno in quel modo. Grazie Davide, ci sentiamo poi domenica prossima. Ok, ciao. Ti lascio una ricetta su YouTube che so che non leggerai e non guarderai. Siamo pronti invece per giocare, librerierizzoli.it, per voi ci sono fino a 1000 euro da portarvi a casa, ammesso che riusciate a risolvere il mistero in 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. 800 24 00 24, partiamo immediatamente, siamo un po' in ritardo col primo indizio. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle d'una ad una, ai, cerco di sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare. Sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui. Eccolo qui, questo era il primo indizio, non capisco mai se è veloce la canzone perché era ancora un 78 giri oppure perché era un foxtrot veramente così veloce. Giampiero dalla provincia di Varese, buongiorno, ciao Giampiero. Ciao, buongiorno. Sei venuto alla Fiera del Libro di Torino al Salone o no? Purtroppo sono ammalato, quindi sono a casa. Mi dispiace, vabbè, insomma, siamo almeno la convergenza prevede anche che si possa partecipare col telefono. Allora, Giampiero, questo era Natalino Otto con Ho un sassolino nella scarpa. Primo indizio, siamo a 1000 euro. Cosa vuoi fare? Purtroppo la canzone non la conosco e quindi... non è che ci sia molto da conoscere, sì, nel senso, Ho un sassolino nella scarpa, lui è Natalino Otto, cantante appunto degli anni 40, e tu vuoi però il secondo indizio, quindi scendere a 500 euro? Sì, voglio fare un tentativo. Ah, oh, guarda, c'è, vabbè, insomma, questo, credo che questa tu la conosca molto bene. Questo era il secondo indizio, scusami, siamo a 500 euro, non so se avrai riconosciuto i Pink Floyd di The Great Gig in the Sky, avranno di straordinario successo internazionale. Buio completo. Dai, la risposta può essere o un personaggio o una notizia della settimana, non l'ho detto oggi in effetti questo, però insomma, lo sapete ormai. O una notizia della settimana oppure un personaggio, qualcosa di particolarmente conosciuto. Guarda, purtroppo non sono molto documentato perché essendo malato i giornali non li ho visti. So che lo Space Shuttle ha ritardato la partenza per un problema. Allora proviamo a dare quella, scusami. Può darsi lo che shuttle, magari è stato quello il problema. Chi lo sa, potrebbe essere l'intoppo, il sassolino nella scarpa e poi lo shuttle, perché parliamo del Great Gig in the Sky. Ci sta come risposta, Giampiero. Adesso non posso dirti se è quella giusta, lo scopriremo solo allo scoccare del 24esimo minuto, anche se oggi erano 20. Comunque, vabbè, grazie, ciao Giampiero. Ciao, buona giornata. 800 24 00 24, gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo a giocare. Un mistero in 24 minuti. Andiamo avanti col mistero per voi, adesso ci sono 500 euro, il premio si è abbassato, abbiamo già scoperto due indizi da spendere su librerierizzoli.it. Antonio dalla provincia di Palermo. Ciao Stefano. Ciao Antonio, buongiorno. Eccoci qua. Allora, due indizi li abbiamo scoperti, siamo a 500 euro, che cosa vuoi fare? Io avevo una un'ipotesi, solo che forse Gian Piero ha già indovinato. Io proverei con il terzo indizio, magari per provare la mia seconda ipotesi. Probabilmente sì. Eccolo qui il terzo indizio per 300 euro. Gridare che ti stringo sul mio cuore per proteggerti dal male che vorrei poter cullare il tuo dolore. Antonio, questo è il terzo indizio, siamo a 300 euro, era Rene Grandi con Bruci, la brucia la città. Io la butto lì, la notizia che mi ha colpito questa settimana sicuramente non sarà la risposta corretta, però prova, ci sei qua apposta, quindi. Sì, infatti la notizia che mi ha colpito è la procedura di congelamento delle scarpe di Natale prese così all'eternità, protette per i prossimi 2000 anni, ma l'ho buttata tanto per curiosa notizia. Grazie Antonio, non posso dire niente, ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Norma, dalla provincia di Varese. Buona domenica. Grazie anche a te, Norma. Eccoci io, qua. Io, come primo così impatto, ho pensato... Aspetta, Norma. Tu non vuoi nessun altro indizio? No, non potrei indovinare comunque. Magari. Allora, aspetta, sentiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Un trattorino nella carpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai... Allora erano un sassolino nella scarpa, Natalino 8, The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd, e poi brucia la città, Irene Grandi. Questi tre indizi. Dicevi, Norma? Io, siccome ho seguito il Festival di Cannes, ho pensato al film di Moretti, Abemus Papa. Hai visto che grande successo che ha avuto anche? Bellissimo. Io non l'ho ancora visto, però insomma mi prometto di andarlo a vedere molto presto, perché so che è davvero molto bello. Grazie Norma per la tua risposta anche, poi scopriremo se sarà quella giusta. Buona giornata. Ciao, Gennaro da Latina. Buongiorno Stefano. Ciao Gennaro, eccoci qui. Allora, tre indizi ormai scoperti, ne abbiamo ancora per te, siamo a 300 euro, che cosa vuoi fare? Io vorrei anche un po' dissociarmi dagli altri, cioè con il personaggio. Ma vuoi un altro indizio o no? Lo butti basta lì così. Ah, vai Gennaro, allora chi? Francesco Cossiga. Perché? Perché penso così. È così, proprio il cuore che te lo dice, diciamo. Va bene. E a volte il cuore ci dà ragione. Grazie Gennaro, buona giornata. Magari 300 euro sono tuoi. Ciao, Gianni da Bologna. Ciao. Ciao Gianni, ma tu l'hai visto Magilla Gorilla in giro per Bologna? Sempre. Ah, lo vedi? Cos'è che è? Ha rotto? Rotto un po'. Ah, perché ne hai visto tanti, vabbè insomma. Io poi abito in centro, batteva qui, ferocemente. Vabbè, vedi, insomma. Ma tu l'hai capito che è una provocazione, ovviamente, certo, sì. Non hai detto magari un sindaco vero. Dimmi, certo Gianni, com'è? Sei bravissimo. Ti ringrazio molto Gianni, va bene, spero di non essere come il gorilla però, di non rompere. Allora Gianni... Io pensavo solo una cosa banale, ma banalissima. Sì. Passaggio di Skype alla Microsoft, dico bene, perché io poi sono vecchietto, ho 70 anni. Va bene, quella potrebbe essere una notizia possibile. Grazie Gianni, grazie. Grazie a te, buona domenica. Buona giornata, grazie anche a te. Nadia da Milano. Pronto? Ciao Nadia, buongiorno. Buongiorno. Allora Nadia, io siccome amo scrivere, voi siete alla fiera del libro? Sì. Vorrei credere ancora nelle favole. Devi crederci, vai. Allora, io spero che sia la frase, visto che è una signora e visto che ha dato una stoccata un po' poco educata, voglio sperare che sia la frase con cui ha commentato la Moratti la sua uscita dal faccia a faccia con Pisapia. E abbia detto, allora, mi sono tolto il sapore dallo scatto. Però Nadia, sai cosa? Allora, posso dirti una cosa? Allora, è bello il tuo, perché tra l'altro sai che mettendo insieme le cose potremmo anche farci centrare gli altri indizi. La tua risposta non è quella giusta, te lo dico subito. È finito anche il tempo, fra l'altro. Nadia, però una cosa te la voglio dire. Non avrebbe potuto essere una risposta così, perché sai che oggi non si può parlare di questi argomenti, in poche parole. Non possiamo parlare dei candidati sindaci, eccetera, perché qualcuno poi potrebbe pensare, se no... Capito, Nadia? Sì, beh, questo l'avevo pensato. Ecco, solo però, per questo, però hai fatto bene a buttarti. Mi dispiace, la risposta non è stata quella giusta, ma ti ringrazio molto. Grazie. Buona giornata. Anche a te, grazie. Ma in realtà abbiamo un vincitore, e ce l'abbiamo, sì, e si chiama, l'abbiamo al telefono, eccolo qui. Gianni, ciao Gianni. La mia risposta, Gianni, banale era la giusta. Vedi, sarà stata banale, ma era giusta, perché Microsoft ha comprato Skype e quella era la notizia. Allora, il primo indizio era Natalino 8, l'indizio era nascosto nell'8 perché 8 erano i miliardi di dollari. Sì, oltre lui poi hanno pagato. Esatto, il mezzo miliardo in più poi è servito per sollevare per le sorti di Skype. Sì. Bravo, vedi che sapevi tutto allora. Poi The Great Gig in the Sky, perché Skype, appunto, per cui c'era quello. E poi brucia la città, perché Microsoft ha bruciato tutti proprio per l'offerta molto alta. Come offerta è stata la più grossa. Bravo, insomma Gianni, sapevi tutto, hai messo insieme gli indizi, direi molto bene. Per te 300 euro da spendere su libreriarizzoli.it, complimenti. Grazie. Anche ai tuoi 70 anni ci fa piacere, insomma, sapere che siete sempre così attivi. Bravi, così vi vogliamo. Buona domenica, ciao. Grazie. Ovviamente grazie a tutti gli ascoltatori, grazie anche agli ascoltatori che sono venuti qua, che sono stati presenti proprio al Salone del Libro di Torino. Noi continueremo con le nostre trasmissioni in diretta, un libro tira l'altro, dico in diretta qui dal Salone, poi La Rosa Purpurea più tardi ancora. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza qui a Torino Laura Vanossi e Marco Lombardo, l'assistenza a Milano di Claudia Carusi, poi la regia qui a Torino Pietro Accorta e Roberto Scaltritti, e a Milano Filippo Aureggi. Insomma, siamo tantissimi, grazie anche a voi, alla prossima domenica. Da Stefano Gallarini, buona domenica, appunto.